Domenica scorsa, mentre assistivo un po' allocchito in televisione a quel fiorire in diretta di luci verdi sul cielo di Baghdad che significava stringi stringi l'ennesimo esempio di ennesimo delitto perpetrato dai detentori del potere sui poveri cristi privi del medesimo, perché essere presi a missilate nei denti non erano certo i cattivi governanti dell'Iraq che da Saddam Hussein in giù se ne stavano tranquilli chissà dove, ma gli iracheni normali che si vedevano cadere attorno Cruises e Tomahawk e Tornados e quant'altro come se piovesse, e se qualche poveraccia di impiegato dell'hotel Al-Rashid ci lasciava le penne e poi c'era Mervyn Fitzwater che spiegava che era un errore della contraerea. Mentre assistevo dunque a quello spettacolo allucinante, mi è capitato di sentire un'affermazione curiosa. Il corrispondente da Baghdad del TG3, mi sembra che si chiami Santo della Volpe o qualcosa del genere, descrivendo quanto succedeva sotto i suoi occhi, a un certo punto ha detto una frase strana. Ha detto: c'è molta milizia in giro. Commentando poi quasi fra sé, non si capisce che cosa serva in questa situazione mandare degli uomini con un mitra all'angolo della strada. Poi ha ricominciato a parlare di missili. Ora, l'osservazione mi è sembrata più profonda di quanto fosse sembrata a prima vista. Schierare la milizia nella strada di una città sotto un attacco missilistico apparentemente non serve proprio un granché. La milizia, come la polizia, i carabinieri, la guardia civile, la guardia nazionale, la guardia rurale, i vari corpi affini che ovunque felicemente proliferano, serve a tenere sotto controllo i propri concittadini. E se c'è una cosa sicura è che sotto una pioggia di missili i cittadini, anche i più turbolenti, se ne stanno tranquillissimi. Eppure ho sospetto che se ce l'hanno mandata, in giro, in qualche modo a qualcosa serviva. I poveri cristi rannicchiati nelle loro case in attesa che un missile vagante o un errore della contraria vi sbarazzasse del fastidio dell'esistenza, potevano vedere o immaginare quegli uomini con il mitra agli angoli delle vie, poveri cristi anche loro, mandati presumibilmente senza alcun entusiasmo ad esporsi al pericolo, senza alcun entusiasmo da parte loro, dico, e potevano capire che chi ce li aveva mandati aveva il potere di mandarceli. Saddam Hussein il potere di allontanare i missili americani dal cielo della sua capitale non ce l'aveva, ma quello di angariare i suoi cittadini sicuramente sì, e presumibilmente aveva pensato che non era male ricordarlo, anche in un momento critico come quello. Oh, stiamo attenti. Questo non significa naturalmente che il bombardamento missilistico fosse una cosa bella e utile perché faceva capire al popolo iracheno che Saddam Hussein era un pessimo soggetto e che le lusinghe del fondamentalismo islamico in ultima analisi erano nocive. Questa è la motivazione standard della propaganda americana, ma naturalmente che Saddam Hussein sia un pessimo soggetto l'iracheno medio lo sa benissimo per conto suo. E d'altro canto è lecito sospettare che vedersi radere il suolo da Cruises, Tomahawks, Tornados e altro ingeneri comunque una qualche ostilità verso le democrazie occidentali e verso l'umanesimo cristiano, magari una certa perversa solidarietà col proprio governo, quale che sia. Io credo che la percentuale di filo americani nella popolazione di Hiroshima o quella di filo britannici tra i cittadini di Dresda sia sempre stata bassina, anche dopo la conversione alla democrazia delle rispettive patrie. Ma non c'è Cristi, amici miei, queste sono le regole del gioco che si sta svolgendo tra quel maiale di Bush e quel porco di Saddam Hussein. E l'uno e l'altro buttano sul tavolo il proprio potere e la pelle degli altri. Entrambi contrattano tra di loro, con gli altri, entrambi contrattano in base alla propria capacità di conculcare delle altre persone, che è la grande, l'unica moneta di scambio tra chi fa quel loro triste mestiere. E da questo punto di vista, naturalmente, mandare una milizia all'angolo della strada sotto il bombardamento è una misura assolutamente logica.